Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non sono contrario al fatto che si elimini la tassa sulla prima casa, ma togliamola ai ceti medio-bassi, a chi può pagarla, io ad esempio, facciamola pagare, io la voglio e pagare. Con quei risparmi facciamo la flessibilità. Penso che con quelle risorse risparmiate si possano fare delle altre operazioni, ad esempio la flessibilità. Che ne dite, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Può essere un'ipotesi questa che vi trova d'accordo? Questo era Cesare Damiano, presidente del PD, presidente della Commissione Lavoro della Camera, che a proposito di questo annoso, spinoso dibattito sulle pensioni, di nuovo oggi se ne parla della possibile flessibilità in uscita, opzione donna, opzione uomo, si capisce ormai poco, però questa è l'ipotesi di Damiano che dice allora facciamo che invece la TASI non viene eliminata a tutti, a quelli che la possono pagare, che se lo possono permettere, facciamola pagare e poi con quelle risorse possiamo allora pensare davvero a intervenire sulle pensioni per agevolare chi vuole uscire un po' in anticipo. Che ne pensate? Sareste d'accordo? La TASI per chi se la può permettere, quelle risorse da utilizzare poi per la flessibilità in uscita, in pensione? Pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre opinioni, le potete scrivere oppure mandate gli sms al 349-238-6666. Sapete, questi sono sempre i vostri canali privilegiati per intervenire tutte le sere qui Effetto Notte dalle 21 alle 22, quindi o gli sms al 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire di giorno e di notte. Insomma, questa è la settimana che è iniziata col giuramento di Tsipras, che è di nuovo primo ministro greco, con l'approvazione all'unanimità della linea Renzi sulle riforme, anche se la minoranza PD è uscita oggi dalla direzione, con una missione molto grave della Volkswagen sulle emissioni, una missione sulle emissioni inquinanti, e poi con la visita del Papa a Fidel Castro. Insomma, ce ne sono argomenti di parlare anche questa sera. Prima di tutto vi racconto la giornata in sintesi, poi cominciamo ad addentrarci man mano negli argomenti. Riforme, la direzione del PD approva all'unanimità la relazione di Renzi, il presidente del Consiglio sfida Grasso, se apre sull'articolo 2 si dovranno convocare Camera e Senato. Il dibattito sulle pensioni, il ministro Poletti conferma, il governo sta lavorando per rendere flessibile l'uscita in pensione. Volkswagen, dopo la missione sulle emissioni truccate, il gruppo automobilistico chiude gli scambi in borsa perdendo il 18,6%. Grecia, dopo la vittoria domenica, oggi Tsipras ha prestato giuramento, è di nuovo il primo ministro greco. Skype, il servizio di chiamate da internet, è fuori uso in tutto il mondo per problemi tecnici. Calcio, stop di 20 giorni per Mandzukic della Juventus per una lesione del bicipite femorale, resta un rebus il caso Morata. Partiamo quindi dalla politica italiana. Dopo il dibattito, le divergenze anche e soprattutto interne al PD sulle riforme, oggi c'è stata la direzione del PD, l'assemblea del PD per serrare le fila. La relazione del segretario del partito, nonché presidente del Consiglio Matteo Renzi, è stata approvata, vi dicevo, all'unanimità. Matteo Orfini, che è stato presidente dell'assemblea, ha sottolineato che non ci sono stati né voti contrari né astenuti, ma piccolo particolare, la minoranza non ha partecipato al voto. Allora sentiamo un passaggio della relazione di Renzi durante la direzione del partito. La svolta su questa legislatura è stata il momento nel quale abbiamo scelto di fare le riforme. So chi di voi ama il rugby, però se qualcuno ama il rugby, sabato scorso mi pare, mi ricordo 3-4 giorni fa, è stata una partita che resterà nella storia del rugby. Giappone contro Sudafrica, lo dico scherzando perché il Giappone contro Sudafrica è Zaire contro Brasile di calcio. La partita doveva finire 65-0, una roba del genere. Si arriva all'ultima azione, come sapete nel rugby bisogna finire l'azione, e si sta 28-30. Il Giappone ha la palla. Ora, in un mondo normale ti aspetti tutto, tranne che i giapponesi cerchino di andare appunto a meta. E i giapponesi lo fanno, a sorpresa, contro l'opinione di tutti, e facendo una azione che resterà nella storia del rugby, decidono di provare il tutto per tutto e vincono di uno. Avete capito, insomma, questa lezione di rugby, piacciono le metafore a Renzi, è sempre durante la direzione. Renzi ha confermato che si sta lavorando sulle pensioni, oggi ne aveva parlato anche il ministro Poletti, ma andremo più nel dettaglio sulle possibili ipotesi più tardi. Spostiamoci invece sulla Grecia, perché Alexis Tsipras ha giurato fedeltà alla Costituzione e al popolo greco davanti al Presidente della Repubblica Ellenica e ora nuovamente Primo Ministro. Domani dovrebbe presentare il suo esecutivo e passare quindi poi a varare queste riforme richieste dall'Europa, con cui insomma ha trovato accordi Tsipras. Per capire quali potrebbero essere le prime mosse ci collegheremo tra poco con Atene. Intanto invece parliamo dello scandalo che riguarda la Volkswagen, è lo scandalo delle emissioni truccate negli Stati Uniti. Volkswagen ha chiuso la peggiore seduta in borsa dopo questa emissione degli ultimi 7 anni con un tonfo di circa il 20%. La Volkswagen sta pagando cara in borsa la truffa ai controlli sulle emissioni dei motori diesel negli Stati Uniti. Le azioni del colosso di Wolfsburg hanno perso stamattina a Francoforte fino al 22% a 126 euro rispetto ai 162 di venerdì sera, con un crollo della capitalizzazione di 19 miliardi euro. In pratica il titolo sconta per intero la maxi multa che il gruppo potrebbe vedersi infliggere dalle autorità americane, multa che nel peggiore dei casi potrebbe arrivare fino a 18 miliardi di dollari. Anche se difficilmente, secondo gli analisti, la sanzione sarà così elevata, al suo impatto bisogna raggiungere il costo dei richiami di quasi 500.000 veicoli coinvolti, il probabile calo delle vendite di auto diesel negli USA, particolarmente negativo perché Volkswagen stava tentando proprio con i diesel di recuperare terreno, e i per ora incalcolabili danni di immagine. Ieri l'amministratore delegato di Volkswagen, Martin Winterkorn, ha ammesso la frode e si è scusato per l'accaduto. Il board prende molto sul serio, ha detto, le violazioni accertate, e io stesso sono profondamente dispiaciuto di aver deluso la fiducia dei nostri clienti. Il manager ha detto di aver affidato a una società esterna l'incarico di condurre un'inchiesta sul caso e Volkswagen ha sospeso con effetto immediato la vendita negli Stati Uniti dei modelli equipaggiati con il motore incriminato, ma la posizione dello stesso Winterkorn, il cui mandato è stato appena rinnovato fino al 2018, non sembra più così solida. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo naturalmente anche a parlare dell'esodo dei migranti. Il Parlamento ungherese ha approvato oggi con la maggioranza dei 2/3 un provvedimento che prevede l'impiego dell'esercito a sostegno della polizia per la difesa dei confini meridionali dell'Ungheria. A breve saranno inviati alla frontiera con la Serbia 3.500 militari che potranno fare uso anche delle armi nel caso i soldati si trovassero in pericolo di vita. E in vista dell'imminente vertice sull'emergenza immigrazione, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che non si aspetta che si possa arrivare a una soluzione sulle quote nel prossimo Consiglio europeo. Mentre profughi a migliaia continuano la propria marcia verso l'Europa, i Paesi membri sono alla rincorsa di un accordo sulla redistribuzione delle quote che dovrebbe essere siglato domani nel Consiglio straordinario UE degli affari interni. Nella bozza del testo è inserito il numero totale dei 120.000 profughi da ricollocare e in due allegati il numero attribuito ad ogni Stato. Dal nostro Paese, del totale di 15.600, 4.027 vanno in Germania e 3.064 in Francia. La redistribuzione incontra ancora l'opposizione di Slovacchia, Romania e Repubblica Ceca, il cui ministro dell'interno ha fatto sapere che potrebbe essere illegale nel diritto comunitario imporre una quota di rifugiati ad un paese contro la sua volontà. Secondo fonti UE, uno degli strumenti studiati in queste ore è una sorta di multa di 6.500 euro che i governi dovranno versare per rifiutare l'accoglienza di ciascun profugo fino a una quota del 30%, ma questa soluzione non piace a Germania, Francia e Italia. Un'altra possibilità in discussione è permettere al paese che lo chiede di ritardare i ricollocamenti di 6 mesi. Il tutto mentre il Parlamento ungherese ha approvato in giornata un provvedimento che prevede l'impiego dell'esercito a sostegno della polizia per la difesa dei confini meridionali. Credere che l'Unione Europea possa risolvere la questione dei profughi senza gli Stati Uniti non mi sembra del tutto realistico, le parole di Angela Merkel in vista del vertice straordinario UE in programma per mercoledì. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ovviamente c'è in primo piano anche il viaggio del Papa a Cuba. Oggi ha tenuto la messa a Holguín, mai visitata prima da un pontefice. Poi dopo c'è stato l'incontro con Fidel Castro nella casa di Castro. Tra l'altro c'è un nuovo allarme terrorismo negli Stati Uniti alla vigilia dell'arrivo del Papa lì in America, perché da Cuba poi si sposta negli Stati Uniti. Secondo un documento ottenuto dalla NBC, le forze dell'ordine temono che terroristi possano travestirsi da agenti di polizia e vigili del fuoco per lanciare attentati nel paese. Parliamo però adesso di una coda polemica di questo viaggio del Papa. Ad accogliere il Papa a Filadelfia ci sarà anche il sindaco di Roma, Marino. Dopo le contestate ferie di agosto, Ignazio Marino torna negli Stati Uniti. Il sindaco di Roma ha infatti accettato l'invito del primo cittadino di Filadelfia e tra mercoledì e giovedì volerà nella città americana in occasione della visita di Papa Francesco. Una trasferta confermata nonostante il periodo non facile per la capitale, alle prese con i problemi legati ai lavori per il Giubileo, ormai alle porte, con i nuovi disagi nel trasporto pubblico, per ultimi quelli che hanno riguardato le Ferrovie Nord. Scappa di nuovo è l'attacco che arriva dall'ex sindaco Alemanno. Incurante delle nuove polemiche, Marino però tira dritto per la sua strada. Il sindaco stamattina ha partecipato alla giornata della legalità e della trasparenza promossa dal Campidoglio in risposta a Mafia Capitale. L'amministrazione precedente ha lasciato macerie e noi stiamo cercando di ricostruire una cultura diversa, ha spiegato Marino. Non ci sono zone intermedie nella lotta alla corruzione, da una parte o dall'altra. La nostra parte è quella della buona amministrazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia terribile che arriva dall'estero. I soldati statunitensi di stanza in Afghanistan sono stati istruiti, pensate, a ignorare i tanti abusi sessuali commessi dai poliziotti locali ai danni dei bambini. E quanto emerge da un reportage del New York Times, che ha dato voce ad alcuni ex militari americani invitati dai loro superiori a guardare dall'altra parte, perché così è la loro cultura. Gli stupri di bambini sono da tempo un grosso problema in Afghanistan, che riguarda in particolare i comandanti militari che controllano le zone rurali. Eravamo lì per terribili cose che i talebani facevano contro popolazione, ha detto Dan Quinn, ex capitano delle forze speciali americane, che una volta ha picchiato un comandante afghano che teneva un ragazzino incatenato al letto come schiavo del sesso. Dice: ma stavamo dando il potere a persone che commettevano cose ben peggiori dei talebani. Alcuni dei militari, fra l'altro, che hanno disobbedito a quegli ordini, che hanno reagito contro questi abusi sui bambini, come il capitano Quinn appunto, hanno subito azioni disciplinari, in alcuni casi hanno avuto la carriera rovinata. Di nuovo in Italia, Marco Tronchetti Provera, imputato a Milano per aver diffamato Carlo De Benedetti, è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. E adesso parliamo dei problemi tecnici, qualcuno di voi si sarà accorto, di Skype. Milioni di utenti che affidano la propria comunicazione a Skype sono rimasti oggi bloccati da un guasto su tutta la rete del popolare servizio. Per quasi tutta la giornata, in Europa fino alle 18 circa, milioni di utenti del popolare sistema per videochiamare gratis su internet sono rimasti muti o ciechi. Un problema ai server di Microsoft ha bloccato un numero imprecisato di account in quasi tutto il mondo. Nato come un sistema decentralizzato nel 2003, Skype passò di mano almeno tre volte per finire nel 2011 a Microsoft. L'architettura distribuita venne cambiata e centralizzata, motivo per cui se i server centrali vanno in tilt, tutti o buona parte degli utenti di Skype rimangono senza voce. Domani verrà lanciata la versione 2016 di Office e, vista l'integrazione di Skype nel pacchetto per l'ufficio di Microsoft, il problema potrebbe essere nato proprio da qui, dall'aggiornamento al nuovo sistema. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è spazio anche per il cinema. Si mette in moto la macchina degli Oscar, si comincia già a prepararsi, ed ecco i film italiani che si iscrivono per essere candidati a rappresentare l'Italia. Non essere cattivo, film postumo di Claudio Caligari, Il giovane favoloso di Mario Martone, Latin Lover di Cristina Comencini, L'attesa di Piero Messina, Mia madre di Nanni Moretti, Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto, Per amor vostro di Giuseppe Gaudino, Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio e Vergine giurata di Laura Bispuri. Sono questi 9 film che si sono iscritti a partecipare alla selezione per il candidato italiano ai premi Oscar. Requisito fondamentale per iscriversi: la distribuzione tra il 1 ottobre 2014 e il 30 settembre 2015. La decisione della commissione di selezione arriverà il 28 settembre. Prima di Natale, oltreoceano, verrà stilata la shortlist dei primi film ammessi. L'annuncio delle nomination il 14 gennaio, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 28 febbraio 2016. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere un po' di calcio, stop di 20 giorni per Mandzukic, che ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Resta un rebus invece il caso di Morata. Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni muscolari alla parete addominale. Le condizioni dell'attaccante spagnolo, precisa la Juventus, verranno monitorate nelle prossime ore. Noi invece nei prossimi minuti ci addentriamo negli argomenti con i vari ospiti, a partire tra poco dalla seconda parte di Effetto Notte. Adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia. Volevo però dare un occhio velocissimo ai vostri messaggi, sia quelli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349 238 6666. La domanda che vi ho posto stasera è sul sulla flessibilità in uscita per andare in pensione continua il dibattito. Oggi Damiano, presidente del PD, presidente della commissione lavoro della Camera, ha fatto questa proposta: non leviamo a tutti la TASI, a quelli che se la possono permettere facciamola pagare, e quelle risorse utilizziamole appunto per far uscire prima chi vuole da lavoro, insomma farlo andare prima in pensione senza eccessive decurtazioni dell'assegno mensile. Che ne pensate? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Felice dice: la tassa sulla prima casa la caricherei tutta sulla seconda. E poi dice invece un altro ascoltatore: Damiano, faccia il comunista per sé, dando l'esempio, che ha fatto fortuna, non l'ha fatto necessariamente rubando. Damiano non ha mai pensato o fatto qualcosa contro i fannulloni, solo i diritti per loro, si vergogna. In realtà però Damiano ha detto: io stesso voglio pagarla, cioè chi se lo può permettere, non per forza ricchissimi, insomma, però dice non è una tassa così terribile per chi se lo può permettere, quindi paghiamola. Carlo invece sulla Volkswagen: e poi sono gli italiani i truffaldini, complimenti alla Volkswagen. Dice Franco: scrive una cavolata, dice, non che scriva una cavolata, dice è una cavolata togliere la tassazione sulla prima casa, meglio diminuire la tassazione alle partite IVA. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Gianni scrive al 349-238-6666: troppo facile fare cassa a scapito degli esodati e aumentare l'età pensionabile. Tagliare, caro Renzi, anche se qui si pensa alla flessibilità, adesso vediamo, perché insomma un giorno si dice una cosa, un giorno un'altra, vediamo poi come prosegue questo dibattito. E poi a Carmine da Rocca dice: se un disoccupato deve pagare un euro di tassa sulla casa, un politico ne dovrebbe pagare 10.000 volte tanto. E poi gli altri messaggi continuerò a leggere anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Però prima vi ricordo, perché molti non accendono puntualmente alle 21, vi ricordo quali sono le notizie principali. Renzi, la direzione PD sfida Grasso, ma con la minoranza ci sono prove di dialogo, tra poco ne parliamo. A proposito delle pensioni, Poletti conferma: lavoriamo sulla riforma, su uno scalino anti-turnover, è possibile un'uscita per le donne per i 62-63 anni. Volkswagen ammette una violazione sulle norme statunitensi sulle emissioni e il titolo perde meno 18%. Unione Europea: dall'Italia 4.000 profughi in Germania e 3.000 in Francia, anche la Slovenia però nel frattempo alza un muro e il presidente Mattarella dice che bisogna battere le paure a proposito dell'emergenza migranti. Tsipras in Grecia giura da premier, avrà un ministro per il memorandum e l'Europa intanto incalza: il governo sia costruttivo, deve rispettare gli impegni. Poi il Papa negli Stati Uniti, c'è l'allarme per terroristi travestiti da poliziotti, intanto oggi il Papa ha visto Fidel Castro a Cuba. Quindi per quanto riguarda la politica italiana, oggi c'è stata la direzione nazionale del PD in cui è stata approvata all'unanimità la linea di Renzi sulle riforme. Diciamo che anche se la minoranza, ecco questo è un piccolo particolare, non ha partecipato al voto, però Bersani, l'ho visto dalle agenzie, piuttosto ottimista. All'ordine del giorno comunque di questa direzione PD c'erano i nodi da sciogliere sul tema della riforma del Senato. Sapete che la minoranza è piuttosto diciamo sul piede di guerra, anche se poi nei voti che ci sono stati al Senato finora ha votato insieme alla maggioranza. Questione ancora più delicata quella della posizione che ha assunto in questi giorni il Presidente del Senato Piero Grasso a proposito di una riapertura di discussione sull'articolo 2. Però cominciamo da capo con Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Allora, ciao Roberto, insomma è stata una direzione del PD un po' stile renziano, diciamolo, no? Però l'accordo un po' già si profilava nei giorni scorsi. Lui ha detto chiaramente che non si tocca il fatto che i senatori non devono essere eletti, cioè eleggibili, ma devono poi passare magari per una mediazione, che è questo nodo Tattarella, cioè praticamente un listino separato, che è questo di cui si parlava, cioè in pratica l'elettore saprà quando andrà a votare il consiglio regionale chi è quello che in quel partito andrà al Senato delle regioni, e questa indicazione verrà fatta dall'elettore, ed era questo che teneva a dire il PD, e non dai consigli regionali, cioè la minoranza PD voleva questo. Allora Renzi ha spiegato che non accetta la diktat della minoranza, ha fatto il suo grande show, ha anche avvertito un po' Grasso dicendo sarebbe assurdo. Ecco, scusa se ti interrompo, proprio facciamolo sentire la sua viva voce, perché a me è sembrato, non so se dire ambiguo, sibillino, se è un avvertimento. Sentiamo, poi ci traduci tu, Betta, sentiamolo. C'è un punto da chiarire: che cosa fa il Presidente del Senato? Io lo dico con molto rispetto. Il Presidente del Senato ha lasciato intendere che potrebbe aprire alla modifica di una norma già approvata con una doppia conforme. Nel qual caso, se apre su questo, credo che sarà opportuno convocare una riunione di Camera e Senato, trattandosi di un fatto che avrebbe le caratteristiche dell'inedito. Già c'è il bicameralismo perfetto e paritario. Se poi non basta neanche quello... Cioè, cosa vuol dire, Betta, che se Grasso dovesse dire bisogna rivedere questa storia dell'articolo 2 sulla non elettività dei senatori, cosa fa? Cade il governo, in crisi no, il governo? No, cosa vuol dire convocare le Camere? Lui ha precisato, perché a un certo punto tutti quanti dicono allora il Premier... No, ricatta Grasso, ricatta, minaccia Grasso. Allora, subito dopo, avendo visto le prime reazioni, il Premier del Tribunale ha detto: intanto no, io come Presidente del Consiglio non ho il potere di convocare le Camere. Inoltre io ho semplicemente detto sarebbe un fatto inedito e noi come gruppi parlamentari del PD ne dovremmo discutere. Quindi un pochino ha smorzato su questa out-out. Certo è, non è stato un out-out, Roberta, ma a livello politico c'è un pressing sul Presidente del Senato da giorni e giorni. La novità vera è venuta dalla festa dell'unità di Modena, dove l'ex segretario per Luigi Bersani, caposaldo della minoranza che non ha votato la relazione di Matteo Renzi, che è stata approvata all'unanimità per questo. Che non era proprio presente, lui non era proprio presente Bersani, no, alla direzione, perché era la festa dell'unità. Sì, lui l'aveva disertata perché dice che aveva questo impegno alla festa dell'unità. Però la cosa fondamentale, la minoranza, non essendoci poi Pierluigi Bersani, ha deciso di disertare il voto, per cui la relazione di Matteo Renzi è stata approvata all'unanimità, ma all'unanimità finta, perché insomma se la minoranza non vota, no? E a quel punto invece è intervenuto Bersani e ha detto: noi tutto sommato nella sostanza vediamo che c'è un'apertura. Nei giorni scorsi si era parlato di questa apertura sul comma 5 all'articolo 2, molto difficile da interpretare. Insomma, alla fine questo famoso listino a parte in cui i cittadini potranno dire: va bene, ok, voto questo qui, va al Senato per questo partito, lo voto o non lo voto. Ecco, quindi c'è questa apertura, si potrebbe... La sostanza, potrebbe perché essere. Poi alla fine la gente quando andrà a votare dirà: ma che è sta cosa, no? Che questa appendice. E allora a un certo punto si sta ricomponendo a livello politico, perché poi Bersani l'ha detto chiaramente, non c'è bisogno di Verdini, si sta ricomponendo quello che è successo con l'elezione di Mattarella. Cioè Renzi ha capito che vale più un accordo con la minoranza del suo partito piuttosto che un allargamento a forze tipo i verdiniani oppure altre forze che snaturerebbero quello che è il Partito Democratico, e in una logica di elettorato molto diviso in cui c'è chi vota 5 Stelle ed è convintissimo, c'è chi vota Lega ed è convintissimo. Lui vuole far diventare convintissimi anche quelli che votano PD, che sono però più variegati come elettorato che non i 5 Stelle o chi vota magari Lega e Salvini. E questa è un'altra tappa, poi andremo a vedere che cosa succederà prossimamente in questo iter di votazioni. Grazie intanto a Betta Fiorito da Roma. Ciao. Grazie, Betta. A voi. Ciao. Ora invece dalle questioni italiane ci spostiamo su quelle greche, perché sapete che domenica, ieri, si è votato, che cosa succede? C'è Vittorio D'Arold? Sì? Succede che Tsipras ha completamente a sorpresa vinto. No, un momento, scusami Vittorio, c'era un problema tecnico, deve partire la sigla, siamo nello spazio europeo. Europa 24 notte. Ecco, ora sì che possiamo entrare nel pieno dell'Europa, perché naturalmente quello che succede in Grecia riguarda tutta l'Europa, l'abbiamo visto nei mesi scorsi, no? Ora parliamo sempre dell'emergenza immigrazione, abbiamo parlato per mesi dell'emergenza Grecia, che sembra un po' rientrata. Bisogna vedere adesso Tsipras, che è di nuovo primo ministro greco, Che cosa farà? Sarà in grado col nuovo esecutivo di portare a compimento le riforme chieste dall'Unione Europea? Però ti devo dire, Vittorio Darold del Sole 24 Ore, in diretta da te nel nostro Vittorio, ciao, ti risaluto Vittorio. Ciao. Ecco. Tsipras ha prestato giuramento oggi, dovrebbe annunciare domani il nuovo esecutivo, però sentiamo come è entrata la politica italiana e nello stesso tempo europea in queste elezioni, per voce di Renzi. Mi limito casomai a prendere atto che le scissioni funzionano molto come minaccia, un po' meno al passaggio elettorale. Chi di scissione ferisce, di elezioni perisce. Anche Stovarufakis, per utilizzare un tecnicismo, se lo siamo tolti. Lui ha fatto una metafora del rischio di scissione all'interno del PD per dire attenzione, guardate che fine ha fatto Varoufakis. Varoufakis però, ex ministro dell'economia del primo governo Tsipras, sembra che abbia twittato: Renzi, non ti sei liberato di me ma della democrazia europea, quando quella notte hai ricattato Tsipras. Sì, esattamente così. Il tweet è partito un paio d'ore fa ed è in greco, ma appunto tu l'hai tradotto esattamente, e questo sta scatenando già la polemica qui ad Atene, perché Varoufakis, appunto, pur non avendo partecipato alle elezioni, sta continuando ad attaccare Tsipras, il suo vecchio amico e ex alleato, che lui considera un traditore perché non ha rispettato il mandato contro l'austerity e contro il piano che lui poi ha firmato nella famosa notte del 12-13 luglio, quando per evitare la Grexit ha detto sì all'austerity. Ci sto alle condizioni dell'Europa. Ma Vittorio, io ti chiedo questo: questa di Tsipras, di Alexis Tsipras, è stata vera vittoria? Perché in realtà lui non ha comunque ottenuto la maggioranza e dovrà governare, dovrà fare un governo di coalizione con la destra o estrema destra, non so come definirla, e in più sembra che abbia votato più o meno la metà della popolazione, o no? Sì, esattamente, c'è un grosso astensionismo, sono 700.000 i greci che non hanno votato rispetto a gennaio, su una popolazione di 10 milioni, stiamo parlando quasi del 10% ancora di persone che hanno deciso di non andare al voto. Però rispetto al voto di gennaio, quando Syriza prese il 36,6%, ne ha presi il 35,5%, quindi ha perso solo un punto percentuale, in realtà, sì. E rispetto al fatto di aver perso il 2,7% di ribelli che hanno votato, appunto, che hanno formato una nuova partito, Unità Popolare, che poi non è entrata nemmeno in Parlamento, appunto quelli che sostiene Varoufakis. Ma lì la sua vittoria, comunque il suo essere leader in discorso di questo paese in questo momento, non ha dubbi, cioè non ci sono alternative. Comunque i greci credono che lui sia la persona più carismatica e più capace di negoziare con la famosa troica il piano migliore per la Grecia. Allora, sicuramente che lui abbia carisma e sia la figura più carismatica in questo momento in Grecia non vi è dubbio, ma riuscirà adesso a governare con l'estrema destra e a portare a compimento appunto queste riforme famose? Dunque, il partito che lui si è appunto scelto come partito di coalizione è lo stesso partito con cui ha governato finora. Sono nazionalisti ma anti-austerity, quindi sono esattamente sulla sua linea politica, e in qualche modo lo garantiscono, perché Kamenos, che è questo leader di questo piccolo partito, ha buoni rapporti con l'establishment più conservatore, e quindi tiene i contatti con la Chiesa, la potente Chiesa ortodossa. Kamenos è l'unico, i ministri di questo piccolo partito sono gli unici che seguono, quando giurano, la modalità religiosa, quindi giurano davanti al Pope, mentre Tsipras usa una forma laica, quindi non fa questo giuramento, e quindi è importante per lui perché tiene equilibri che in questo paese sono molto, molto sensibili. Dal punto di vista tecnico e politico si aspettano 100 giorni difficilissimi, perché deve approvare una serie di riforme che il piano gli impone, il piano dei creditori, perché se lui entro il primo di novembre, al massimo ai primi di dicembre, non ottiene questo, non arriveranno i soldi per ricapitalizzare le banche, 25 miliardi, e a quel punto non potrà togliere il controllo dei capitali che ancora oggi vige nel paese. Quindi è una lotta contro il tempo, altrimenti lui non riuscirà poi ad arrivare alla madre di tutte le grandi riforme, cioè abbattere il debito, cioè ridurre il debito, che è il vero problema di questo paese. Quindi al di là dell'entusiasmo, lasciamo godere di Tsipras, ora inizia il bello, possiamo dire così. Grazie Vittorio D'Arold da Atene. Grazie a voi. Ciao Vittorio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ritornando sul quesito che avevo lanciato all'inizio, sul quale potete rispondere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia mandando gli sms al 349-238-6666, Emanuele dice: la tassa sulla prima casa è un'iniquità, che sia uno scantinato o una reggia, si tassino ulteriormente i vizi come il fumo, il gioco d'azzardo e non ciò che è la base stessa dell'esistenza della famiglia. Tra poco poi continueremo, adesso ci prendiamo una pausa di ricreazione, ci sono tanti argomenti, dopo parleremo anche di questo dibattito che continua sulle pensioni e di queste indiscrezioni che sono emerse oggi. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. Da Matt Groening, il geniale inventore dei Simpson, fino al grande artista Keith Haring, passando attraverso storie tormentate come Francesco Nuti e Sinéad O'Connor, fino a Aceto, l'uomo del palio. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Andrea da Bologna scrive al 349-238-6666: Matteo Renzi dilaga e Bersani va alla festa dell'unità a pettinare le bambole. Che se Bersani ha detto che per lui la festa dell'unità, quella di Modena, era un impegno inderogabile, quindi ha preferito essere lì che non alla direzione PD, anche se si è mostrato ottimista sulle aperture tra maggioranza e minoranza del PD. E poi Clotilde scrive: io spero che Grasso e dissidente PD abbiano il coraggio di far saltare il tavolo e si vada al voto, e così vediamo se lo spregiudicato vincerà. Roberta Giordano sempre con voi, come avete sentito i vostri messaggi con me sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, poi leggerò gli altri. Intanto vediamo di nuovo quali sono, se avete acceso in questo momento la radio, le notizie più importanti della giornata, e poi parliamo appunto di questo rebus pensioni. Riforme, la direzione del PD approva all'unanimità la relazione di Renzi, il presidente del Consiglio sfida Grasso e dice: se apre sull'articolo 2 si dovranno convocare Camera e Senato, anche se poi ha ammorbidito un po' la linea. Il dibattito sulle pensioni, ne parleremo tra poco. Volkswagen, dopo la missione sulle emissioni truccate, il gruppo automobilistico chiude gli scambi in borsa perdendo il 18,6%. Grecia, dopo la vittoria di domenica, oggi Tsipras ha prestato giuramento, è di nuovo il primo ministro greco. Skype, il servizio di chiamate da internet, è fuori uso in tutto il mondo per problemi tecnici. Ed ecco qui, argomento pensioni, sempre tema, sembra molto spinoso questo. Dalle indiscrezioni provenienti oggi da Palazzo Chigi, il governo starebbe lavorando all'uscita anticipata delle donne dal lavoro dal 2016 a 62-63 anni con 35 anni di contributi. Si tratterebbe di una nuova opzione donna, se ne ha parlato fino a pochi giorni fa di questa opzione donna. Questa sarebbe una nuova opzione donna che prevederebbe riduzioni dell'assegno legata a questa riduzione alla speranza di vita pari circa al 10% per 3 anni di anticipo rispetto all'età di vecchiaia. E poi è spuntata nel pomeriggio anche un'opzione uomo per chi perde il lavoro. Insomma, quindi questo intervento per rendere flessibile l'uscita in pensione ci sarebbe, il governo ci starebbe lavorando, ma dovrebbe essere compatibile, sempre secondo queste indiscrezioni, anche secondo certi ragionamenti logici, con il quadro dei conti pubblici e degli obiettivi definiti dal documento di economia e finanza, e quindi non potrà che essere probabilmente poca cosa, minimo, focalizzato sulle categorie con maggiori problemi. Chiedo conferma ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti, e devo dire confermo, confermo. Assolutamente, nel senso che qui il gioco delicatissimo, come sempre quando si parla di pensioni, è tra le compatibilità macroeconomiche del bilancio di finanza pubblica e le esigenze dei singoli sempre molto importanti e delicate perché riguardano la fase di ritiro dal lavoro. L'opzione donna, come hai detto tu, potrebbe contemplare un addolcimento del cosiddetto scalone che era stato imposto dalla legge Fornero, che proprio sulle donne aveva agito in modo più abrasivo che non con le altre categorie, perché aveva costretto in poco tempo un innalzamento dell'età pensionabile di vecchiaia a regime fino a 65 anni e 7 mesi. Per gli uomini è un anno in più. Adesso, se la legge Fornero andasse avanti così come previsto, per le donne ci sarebbe un innalzamento di 22 mesi solo a partire dal prossimo anno, e quindi effettivamente già questi scaloni hanno creato degli squilibri nel mercato del lavoro molto forti. Tanto è vero che se andiamo a vedere i dati del mercato del lavoro riscontriamo una cosa molto anomala rispetto al passato, che gli ultra 55 anni sono aumentati, e sono aumentati proprio perché non possono più andare in pensione. E questo provoca, a parte tutta la questione degli esodati, ma anche il fatto che poi i giovani ritardano l'età, cioè diventa tutta una cosa un po' schizofrenica. Si è creato uno shock, uno squilibrio nel normale andamento fluido del mercato del lavoro tra del turnover, insomma, ingressi di giovani e uscita di chi ha maturato i requisiti di pensione. Ora, come dicevi giustamente anche tu, c'è anche un requisito, diciamo, un requisito uomo, diciamo così, un piano per gli uomini. Però molto limitato quanto a platea di soggetti, perché la preoccupazione strategica del governo è quella di non ritrovarsi davanti a una nuova coorte di esodati, e quindi il personale coinvolgibile in questa operazione è quello di chi vedesse esaurirsi tutto il percorso degli ammortizzatori sociali, anche dei nuovi ammortizzatori sociali, cosiddetti NASPI e quant'altro, cioè le vecchie casse integrazione e mobilità. Ecco, per le persone che arrivassero a fine corsa, diciamo così, e non avessero ancora una possibilità di entrare in trattamento pensionistico, probabilmente potrebbero beneficiare appunto di questa accelerazione, di questo ingresso anticipato al requisito per l'accesso alla pensione di anzianità, però con l'assegno decurtato, e anche qui si parla di decurtazioni 3-4%, 10 punti a regime più o meno, anche perché le risorse pubbliche sono poche. Il governo per ora ha fatto trapelare che ha un paletto macroeconomico di circa 1 miliardo. Quando ragioniamo di previdenze, di pensioni, 1 miliardo sono davvero spiccioli. Bruscolini, senti, ti faccio sentire, perché questa domanda che ho sottoposto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è la dichiarazione di Damiano, Cesare Damiano, del PD, presidente della Commissione Lavoro della Camera. Non sono contrario al fatto che si elimini la tassa sulla prima casa, ma togliamola ai ceti medio-bassi, a chi può pagarla, io ad esempio, facciamola pagare, io la voglio e pagare. Con quei risparmi facciamo la flessibilità. Penso che con quelle risorse risparmiate si possano fare delle altre operazioni, ad esempio la flessibilità. Questo Cesare Damiano. Sentiamo Renzi che cosa indirettamente dalla direzione PD ha risposto, più o meno. I vantaggi sono percepiti oggi nel dibattito politico italiano come la tassa. Sarà frutto di un decennio di polemiche, per cui ha iniziato Berlusconi, avete capito bene, elimineremo l'ICI. Poi siamo ripartiti noi, poi è arrivato il governo Letta che ha fatto una discussione su questo tema, arrivando a cambiare nome alla tassa, cambiandogli, ma non riuscendo poi a trovare un criterio per cui è rimasta l'IMU per quelli che hanno la casa di lusso. Poi c'è la TASI per quelli che hanno una casa mediana. E questo meccanismo ha suscitato che cosa? L'inquietudine. Semplificare e rendere più chiaro il meccanismo è la precondizione della ripartenza economica. E questo è anche il motivo per cui l'IMU e la TASI devono andare via per tutti per sempre. Ecco, Renzi ha risposto in questo modo. Tu che ne pensi di questa proposta invece di Damiano? Ma io penso che lì bisogna fare chiarezza strategica, perché effettivamente pensare di abbandonare del tutto la tassazione sulle proprietà immobiliari, formula di tassa che hanno tutti i paesi europei, forse è un po' un azzardo, nel senso che è sicuramente una cosa che rende da un punto di vista politico sul breve periodo, ma non da un punto di vista di entrate fiscali future, di congruità del bilancio pubblico. La priorità strategica dovrebbe essere quella di fare degli strumenti per la competitività del sistema, cioè di abbattere il famoso cuneo fiscale e parafiscale che falcidia oggi il lavoro e impresa, e allontana moltissimo l'entità del costo lavoro pagato da un'impresa e la retribuzione netta percepita da chi lavora per quell'impresa. Questo è la cosa importante che dovrebbe servire poi a rilanciare gli investimenti, l'occupazione, per quella via il reddito e quindi anche un po' il prodotto interno lordo e la ripresa vera e propria dell'economia. l'altro è più un cavallo di battaglia che funziona benissimo nelle campagne elettorali, ma poi alla prova dei fatti, alla prova della tenuta dei conti pubblici non funziona mai. Grazie Alberto Rioli, tu grazie funzioni sempre, ciao Alberto. Adesso c'è la viabilità, voglio leggere un altro messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vela dice: sicuramente sono d'accordo con la proposta di Damiano, sono i redditi alti che devono aiutare quelli bassi, non viceversa. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo in pochi secondi le notizie, in realtà le più importanti. A proposito della politica italiana, Renzi ha tenuto la direzione del PD per ricompattare il partito, che ha votato all'unanimità la sua linea sulle riforme, anche se in realtà la minoranza PD ha lasciato la direzione, non ha votato. Però poi in seguito Bersani dalla festa dell'unità di Modena ha detto: ma insomma, ci sembra che ci siano delle buone aperture per ritornare insomma a un'azione condivisa. E poi cantiere pensioni si potrebbe chiamare. Poletti, il ministro del lavoro, conferma: lavoriamo alla riforma su uno scalino anti turnover, possibile uscita delle donne a 62-63 anni, ne abbiamo appena parlato, c'è ancora un po' di confusione. La Volkswagen ammette una violazione delle norme americane sulle emissioni a proposito delle auto diesel vendute in America e il titolo perde il 18%. E poi per quanto riguarda i migranti dall'Italia, dice l'Unione Europea, 4.000 profughi andranno in Germania, 3.000 in Francia, e intanto anche la Slovenia alza un muro. Tsipras è di nuovo primo ministro greco, oggi ha giurato da premier, avrà un ministro per il memorandum europeo, e poi intanto l'Europa incalza, il governo sia costruttivo e rispetti gli accordi. E poi il Papa negli Stati Uniti con l'allarme per possibili terroristi travestiti da poliziotti, e dice nella sua visita a Cuba: non si abusa dei propri concittadini, bisogna essere al servizio dei cittadini e ci vuole dedizione. È la folla in Plaza Revolución a La Habana che ha accolto il Papa che appunto sta facendo questo viaggio a Cuba, poi sarà negli Stati Uniti. Avete sentito proprio negli Stati Uniti l'allarme che è stato lanciato oggi in America. Però intanto soffermiamoci su questo viaggio a Cuba. Il Papa Bergoglio ha contribuito molto a scongelare i rapporti tra Stati Uniti e Cuba. Ne parliamo con Carlo Marroni, vice vaticanista del Sole 24 Ore. Ti avevo promosso così proprio ufficio. Carlo, esatto. Ciao. Senti, allora, il viaggio a Cuba del Papa, che abbia incontrato Fidel Castro oggi, è una cosa notevole ma non eccezionale, nel senso che anche i suoi predecessori, no, avevano incontrato Fidel Castro, Papa Wojtyla. Sì, in realtà ieri pomeriggio. È stato incontrato sì da Papa Wojtyla nel 98, nel primo importante viaggio di un Papa a Cuba, poi diciamo segnò anche un po' il cambio rispetto anche alla Chiesa Cattolica, che pure ha confermato a Cuba, è stata confermata insomma come abbastanza messa un po' in parte della vita civile. Cuba c'è una costituzione molto, molto anticlericale, diciamo così. E poi anche da Benedetto XVI nel 2012. E già Fidel era diciamo malandato come oggi, quasi come oggi. Quindi è il terzo Papa che incontra, è stato un incontro tra due latinoamericani, questo è diciamo il vero segnale diverso dal passato. Quindi anche parlando si sono intesi meglio, chiaramente avendo la stessa lingua, no? Non c'è dubbio, si sono intesi meglio. Fidel Castro con il fratello Raul, presidente, sono ex allievi dei gesuiti, sono diciamo così, hanno un po' diciamo così nel loro diciamo DNA comunque una forte conoscenza del tema diciamo di come la religiosità nell'America Latina è profonda, quindi si sono intesi sicuramente molto meglio, ecco. Senti, ma le grosse differenze, a parte la lingua, con le visite precedenti, quali sono? Cioè, ovviamente lo sappiamo dall'inizio, questa linea diversa, più aperta, più ecumenica, no? di Papa Francesco. Ma guarda, le diverse sono, diciamo, soprattutto stiamo parlando di due, insomma, quella di Giovanni Paolo II del 98, quindi stiamo parlando di altri tempi anche. Altri tempi, non c'è dubbio. Poi stiamo parlando di un Papa, quello che era, come dire, anticomunista nell'animo, diciamo così, nel Wojtyla. Senso, aveva avuto una forza, tant'è che i movimenti, diciamo così, un po' rivoluzionari o post-rivoluzionari dell'America Latina, anche di derivazione culturale o religiosa, come la teologia della liberazione, da Wojtyla erano profondamente combattuti, mentre questo Papa diciamo, ne proviene in qualche modo a questo mondo, anche se lui è sempre stato contrario a, diciamo, alle derive marxiste della teologia della liberazione, quindi in questo era profondamente differente. E poi soprattutto questo, lui, Bergoglio, parla con la voce del continente latinoamericano, e questa non solo la lingua spagnola, ma proprio il, come dire, l'approccio a tutti i temi. Oggi nell'omelia che ha fatto in questa città, Holguín, che è la terza città più importante del paese, ha parlato in maniera, insomma, molto, molto, diciamo così, profonda, che forse i precedenti papi, diciamo, come approccio non avevano. Ieri sera, parlando ai preti, ha parlato della Chiesa che deve essere povera, cioè l'agenda è cambiata, anche se la Chiesa è sempre quella. E questo a Cuba, il popolo cubano e i governanti cubani lo sentono, e quindi anche, diciamo, nei rapporti con gli Stati Uniti, insomma, si sta riscrivendo un po' la grammatica di quell'area, secondo me. Ma il fatto che oggi abbia detto, appunto, durante la messa Holguín, non si abusa dei propri concittadini, voleva lanciare qualche, frecciata o... Beh, è evidente che lui parlava oggi di San Matteo, una cosa che è un po' complicata, ma cioè, sono un po' lunga, non complicata. Oggi per il Papa Bergoglio è una festa importantissima, perché lui il 21 settembre del 53 si convertì. Questo, lui c'è proprio un momento preciso in cui si converte, entra in una chiesa, proprio questo giorno, cioè, diciamo, l'anniversario, ed è la festa di San Matteo. Parlava di San Matteo, che era uno che chiedeva il denaro, era un gabelliere, no? E quindi, diciamo, abusava dei propri concittadini, e dice, però cambiò. E questa è la storia, il Vangelo, diciamo così, per chi ci crede o non ci crede, questo comunque è quello che è scritto. E naturalmente lui, parlando di quello, naturalmente ha declinato il concetto su un po' tutto quanto, che è stata, diciamo, una fase. Però ecco, diciamo, questa è la cifra forte di questa visita, cioè non è politica, ma è pastorale, che diventa politica, che è un po' diversa, diciamo, da quella che un po' ci si aspettava. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo. E adesso, prima di lasciarci, qualche vostro messaggio. Sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi lì a disposizione. A proposito sempre del quesito iniziale, Vincenzo scrive, cioè farla pagare i soliti dipendenti, quando dice che Damiano bisogna farla pagare chi se la può permettere. Non credo che intendesse questo, però dice Vincenzo, cioè farla pagare i soliti dipendenti, quali, non potendo evadere al fisco, risultano ricchi. E poi un altro ascoltatore invece al 349-238-6666 scrive, i vecchi lavorano fino alla morte, i giovani disoccupati in vita, questo è il paradiso. Marco da Venezia, togliete i vitalizi ai politici e date la possibilità a chi ha fatto 40 anni di fabbrica di scegliere se andare in pensione con un po' meno prima di morire. Simone da Lucca, perché Renzi non ha cambiato il nome alla Google Tax in Web Tax, o come si chiama adesso, non si può sentire. Vabbè, al di là della cacofonia, ma insomma, questa non è proprio, diciamo, una cosa prioritaria, però giustamente, legittimamente. Vito, sicuramente d'accordo con l'ipotesi di Damiano, chi può paghi queste entrate si usino per promuovere il lavoro. Ci sentiamo alle 22. We'll be right back.